Sciagurato, balordo, senza cervello. Addio. L'avevo preso per uno più grande di te. L'hai imparato adesso che il troppo zelo è pericoloso. E voi smettetela di torcervi le mani. Basta, mi torcerò io. Adesso il vostro cuore ve lo strizzerò. Se il maledetto vizio l'ha trasformato in bronzo, in pietra, essere impenetrabile ad ogni ragione. O non essere. Tutto qui. Se sia più nobile sopportare impavidi il peso, le stoccate, le sferzate, gli sberleffi, gli sgambetti della mala sorte, oppure di fronte a questo mare di infelicità rifiutarsi, dire no, prendere un'arma e finirla, morire. O eterno, placare gli spasimi del cuore, annegare tutte le infinite miserie di cui è schiava la carne. Ecco, questa sì, è una conclusione da invocare devotamente. Morire e dormire, dormire e sognare, forse. Ehi! Qui è l'intoppo. Ma già! Perché che sogni sogneremo una volta usciti da questa valle di lacrime? Ecco! Ecco il dubbio mortale che ci tiene in vita. Oh! Perché chi vorrebbe sopportare le ingiurie degli anni, la violenza degli oppressori, l'arroganza dei superbi, le pene d'amor perduto, le procrastinazioni della legge? Londra, Osvit National Theatre, Hamlet Again, by B.A. Young. Chi avrebbe potuto vederlo, non l'ha visto, lo rimpiangerà per il resto dei suoi giorni. Nonostante la lingua straniera, o forse proprio per questo, sono uscito dal teatro con la sensazione di sapere su Amleto molto di più di quando ero entrato. More about Hamlet than when went in. Sono certo che l'Amleto di Giorgio Albertazzi è una delle più grandi interpretazioni dei nostri giorni. Perdersela sarebbe una pazzia. Fate la coda, dormite sull'embankment, saltate il pranzo, fate qualsiasi cosa, ma non perdetelo. It's something to remember for a lifetime. For a lifetime. Si stinge nei lividi rigagnoli del pensiero e così imprese di grande altezza e momento si sviano dal loro corso naturale e perdono il nome di azione. Se mi vuoi. Fu un successo. Amleto a Londra di Zeffirelli. E mio 1964, un secolo fa. Un secolo che un Amleto italiano non andava a Londra. Invitato questo per il quadricentenario di Shakespeare da Laurence Olivier, e c'erano molti Amleti nel mondo quell'anno. L'Amleto in buca, fu un successo. La buca, perché la buca? Ma così, perché una buca può essere tutto, può essere il grembo materno, può essere uno spalto di Elsinore. Fece effetto, fu pubblicata tutta pagina dal Time. Eppure Wanda Marasco non mi cita. Chi è Wanda Marasco? È una che non mi cita. Cita tutti, cani, porci. Eccetto me. Allora, dove ero rimasto lì? Così azioni di grande altezza e momento deviano dal loro corso naturale. Oh, scusate, no. Basta, così non è possibile. Lords, ladies, messengers, guest of Hof Hamlets father, sin Denmark. Tutti qui, prego, tutti qui. Il senso di tutto questo, re, regine, padri, madri, fratelli, sorelle, amici, cortigiani, vergini e no, Il senso di tutto questo, signore e signori, è che vi trovate di fronte a una crisi profonda. Una crisi che i vecchi uomini di coscienza non sono capaci di comprendere e perciò non sono capaci di dominare. Per quanto mi riguarda, l'esistenza è un enigma. È un puro enigma. La crisi non è scoppiata all'improvviso, naturalmente me la porto dietro fino da quando ho perso lo stimolo, l'enfasi di essere Amleto. Forse questa mia è semplicemente impotenza, inadeguatezza al ruolo, forse è semplicemente una fuga, la mia una fuga da Amleto. Io vorrei tentare, lo confesso, sì, vorrei tentare un rapporto con la coscienza degli altri, essere specchio, il teatro, dico, di un processo di invenzione meno tecnico. Il teatro dovrebbe essere questo, una proiezione dell'umano possibile. Parole. Fare teatro dovrebbe essere questo, non parlarlo, cioè, ma farlo. Un misto di matematica, di poesia. Sì, forse il mio è un suicidio. È il suicidio di un attore, con permesso. Parole. Fare teatro dovrebbe essere questo, non parlarlo, cioè, ma farlo, un misto di matematica e di poesia. Sì, forse il mio è un suicidio. Sì, è il suicidio di un attore. Dimenticavo. Questa storia, tutta questa storia, non vi piacerà forse. Tutto sommato non piace nemmeno a me. Ma è una storia, e questo volevo dirvi, è una storia che è nata da voi e da me. È nata in un momento di grande stanchezza, è nata dalla disperazione causata dall'inerzia e dall'impotenza che ci circondano. Anche voi volete che le cose cambino, vero? L'arroganza del potere, la violenza dei superbi, le procrastinazioni della legge, le ingiustizie della burocrazia, gli affronti che il merito paziente deve subire dai mediocri, le pene d'amor perduto, le ingiurie degli anni. Anche voi volete che queste cose cessino di essere necessarie. È possibile. Bisogna uccidere in noi il personaggio tradizionale, lo stampo vecchio, con tutti i suoi vizi e tutte le sue virtù. Bisogna uccidere Amleto. Morale? Ci siamo dentro fino al collo. Dove? Nella merda, maestà. Babbo, da tutto ciò noi non ci guadagneremo niente. È controproducente ammazzare così un eroe, specialmente quando si è cresciuti nelle buone tradizioni teatrali. Oh! Ma chi ci ridarà la gloria delle nostre rappresentazioni? Essere o non essere? Essere o non essere? Essere o non essere? Essere o non essere? Amleto, non scherzare, perché sei venuto? Avevo una bellissima erezione. Dimentichi chi sono io? Siete una vergine. Buonanotte, vergine madre, figlia del tuo figlio. Non andate stanotte nel letto di mio zio. Fingete onestà anche se non l'avete. Buonanotte. Amleto, mi hai spezzato il cuore in due. Gettate via la parte peggiore. Vivete più casta con l'altra metà. Buonanotte. Un momento, Amleto. Carne umana bruciata, fate in nome di Amleto l'esame della vostra umanità. Avrete una visione scottante del mondo e di voi stessi. Perdonate la mia fede, essere pronti è tutto. Buonanotte. Mi prese per un polso, mi tenne stretta, e si mette a scrutarmi il viso come avesse voluto disegnarlo. A lungo stette così finché trasse un sospiro, così angoscioso, così da schiantargli il corpo, come fosse in agonia. Sì, bella e taci, ninfa. Come sta vostra altezza dopo tanti giorni? Come sta vostra altezza dopo tanti giorni? Come sta vostra altezza dopo tanti giorni? Come sta vostra altezza dopo tanti giorni? Come sta la sua aperto denti sani? Condizio sine qua non. Condizio sine qua non. Ciascheduno può dirsi avere in sé tre tuoni di voce, alto, mezzano e basso. Nel linguaggio tecnico l'alto s'appella voce di testa, il mezzano voce di gola, il basso voce di petto, intonazione petto, gola, familiare, testa, sostegno, interrogativo falso, enfasi, sottolineatura, la bocca sollevò dal fiero petto, dal fiero pasto, sostegno, quel peccator, enfasi, forbendo la capelli del capo che gli aveva di dietro guasto. Sottolineatura. Poi cominciò, familiare, testa familiare. Come sta vostra altezza? Testa. Sostenere come sta vostra altezza? Dopo tanti giorni. Non sento. Dopo tanti giorni. Bene, bene, bene, bene. Questo lo dico io. Bene, bene, bene, bene. Zitta. Bene, bene, bene. Madamigella, lo volete in grembo? Cosa, mio signore? Il mio capo, madamigella. Oh sì, signore. Cosa avevate pensato? Qualche gioco di lingua? Non pensavo nulla, signore. Pensiero adattissimo a stare fra le cosce di una fanciulla? Quale, signore? Il nulla. Siete buffo, signore. Talvolta quasi il buffone, talvolta. Una volta vi amavo. Così mi faceste credere, signore? Non dovevate credermi, non dovevate credermi. Guardate, lassù, che superbo baldacchino, il cielo. Per me da un po' di tempo non è che un inquinato vapore pestilenziale. E l'uomo, che capolavoro l'uomo, nobile nell'intelletto, nelle facoltà infinito, mirabile nella forma, nell'azione un angelo, la meraviglia dell'universo. Eppure per me, cos'è questa quintessenza di polvere? No, l'uomo non mi piace, no. E neanche la donna. Non parliamone più, allora. Se le donne non vi piacciono, perché si imbellettano e fanno smorfie, se ce l'avete tanto con loro, andate in convento, non guardatele, fatevi frate. Fatevi, ma fatti monaca tu. Va in convento, va! Fatti monaca, va! Perché vuoi generare dei peccatori? Io sono passabilmente onesto, eppure potrei accusarmi di tali cose che mia madre avrebbe fatto meglio a non partorirmi. Sono superbo, vanitoso, arrogante. Ho dentro di me più malizie che pensieri per contenerle fantasia, per procrearle tempo, per metterle in opera, che fanno esseri come me a strisciare. Il cielo e la terra, vermi siamo tutti quanti, sottoterra, sottosuolo, sottosuolo. Com'era sessantottesco, questo Amleto di Dalla Giacoma è mio. Finiva col fuoco, si bruciava Amleto come un bonzo. Quando cercherete fra di voi l'immagine di un Amleto e vorrete un segno, io vi dico: un uomo che sorride, un uomo convinto che non è la vita fisica che conta, ma il modo di esistere. Un uomo convinto che colui che non ha niente per cui morire, Martin Luther King, non ha niente nemmeno per vivere, eccetera, eccetera. Poi c'era la Cina come spazio interiore, spazio da raggiungere, da guadagnare, da conquistare, a cui ci si rivolge nei momenti di solitudine, di disperazione, di amore, la Cina interiore. Insomma, c'era tutto, non se ne fece di nulla. Amleto si bruciava in piazza San Pietro, uno spazzino spazzava via un mucchietto di cenere, all'alba. Commendatore? Commendatore? Beh, che c'è? Volevo ricordarle il provino, commendatore. La ragazza aspetta da un'ora. Non mi chiamare commendatore, Giuliano. Il provino, sì, va bene. Ma sono io il provinato oggi. Il provino lo faccio io. Gli esami... Il provino lo faccio io. Dov'è? Signorina. Venga, signorina. Come ti chiami? Sei alta. Ma non ci conosciamo già noi due. Allora, cominciamo. La bella Ofelia, ninfa, nelle tue orazioni ricordati di tutti i miei peccati, che sono molti. Ma ci sei? Sicura che ci sei qua? Sì. Col corpo? Sì, sì. Piedi, muscoli, cosce, sesso, eh? Dove guardi? Sembri la fioraia di Chaplin. Quanto sei alta? 1,79. 1? 1,79. Siedi. Grazie della confidenza. Allora, qualcuno sostiene che lungi dall'essere il capolavoro di Shakespeare, Amleto è sicuramente un insuccesso artistico. Amleto è la Monna Lisa della letteratura, esprimerebbe un'emozione che va al di là dei fatti narrati. Shakespeare con Amleto ha affrontato certamente un problema più grande di lui. Dice questo qualcuno. Chi è Amleto? Un altro dice che Amleto è un povero ragazzo con un libro in mano, ma che libro? Un libro pornografico? L'Amleto del 64, mio, cosa leggeva? Sartre? Montaigne? Che libro? Se dovessi rifare Amleto lo farei con un libro da tagliare in tonso e un tagliacarte che può essere e non essere un pugnale. Essere o non essere, pensare che metà dell'umanità ha passato la vita a risolvere questo problema, dice Petrolini. Si può essere più lagnosi, più afflitti, più malinconici di Amleto. Ma cosa voleva Amleto? Non ho mai capito cosa voleva Amleto. Io sono il pallido prence danese che parla solo, che veste a nero, che si diverte nelle contese, che per diporto va al cimitero. La bella Ofelia, amare, gioire, sognare, forse perché l'amore è facile, non è difficile, se ha da succedere, succederà. No. Io non sono il principe Amleto, né ero destinato ad esserlo. Io sono un cortigiano, uno pronto a dar la replica, a dar l'avvio a una scena o due, ad avvisare il principe. Uno strumento facile, deferente, cauto, meticoloso, pieno di nobili sentenze, ma un po' ottuso. A dir la verità, quasi ridicolo talvolta, talvolta anche... Il buffone. Divento vecchio. Porterò pantaloni arrotolati in fondo. Dividerò i miei capelli sulla testa. Avrò il coraggio di mangiare una pesca. Porterò pantaloni di flanella bianca e a spasso me ne andrò sulla marina. Ho udito le sirene cantare l'una all'altra. Non credo che canteranno per me. Le ho viste a largo cavalcare l'onde, pettinare la bianca schiuma risospinta dal vento. When the wind blows the water white and black. È vero, oh Dio, che potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e sentirmi re degli spazi infiniti. Se non facessi cattivi sogni. Non sogno più. Non mi ricordo più i sogni. Sono anni che non sogno. Dalla pubertà. Piano, eh? Cerchiamo di parlare piano, di non affastellare, eh? Affastellare, eh? Con misura. La pubertà, vi ricordate? 10-11 anni, cos'era il mondo? Arcaico il mio contadino, le strade di polvere, mio padre in bicicletta, l'acqua delle mezzine, torrenti, il sole, cicale. Non ci sono più le cicale. Le hanno uccise tutte, infilzandole una per una con spilli elettrici. La pubertà, bella vita, eh? Amore collettivo. Era il tempo prima della civiltà, era il tempo dell'orgia. L'orgia, non la crapula. L'orgia è un amore trascendente, onnigamo, è una passione molto filantropica, nobilissima, aracreontica. Non è vero niente. Non era così. Questo lo dice Fourier, e lo dico io a posteriori. Allora non sapevo neanche che esistesse Fourier. Non l'avevo letto ancora. Allora, come ora, c'era soltanto questo chiacchierare, che per me è sempre in bilico fra l'inganno e la ricerca della verità, il teatro. Guardate mia madre come se la ride. E mio padre è morto da appena 2 ore. Oh no, 2 volte 2 mesi, Altezza. Shakespeare. Madre, padre, famiglia, che trappola. Per tutti, genitori e figli. 11 anni, sei gonfio, ti esce olio dalla pelle. A 15 la vita che vivi non ti basta più, sei assetato d'infinito. Sì, ma ti dicono che è perché sei giovane, che cambierai. Sì, ti rincuorano col peggio, come dire, vieni, prendi questo veleno, vedrai che piano piano ti abitui. L'orgia, ma io sono negato per l'orgia. Sono troppo intelligente, corrotto. Sono un solitario, sono un tipo da solloqui, come questo che sto facendo con voi, che è un tentativo di orgia con voi. Se io avessi le mie orge private, i miei naturali coiti, non sarei qui a tentare di coitare con voi. Il fatto è che una bella mattina ti svegli e leggi che sei morto. Sì, parlano di te come di qualcuno che fu la società intellettuale, tramite la penna di un frillo qualunque, ti defeca. E allora tu che fai? Tu, defecato, sogni una confessione davanti al popolo, una commozione collettiva, un miracolo, e allora ecco, fai la tua comparsa nel mondo e non reciti più una parte secondaria, no, non sei più un cortigiano, sei Amleto, una festa, allora che amore, allora per tutta l'umanità, tutti felici, danzano, ballano, cantano per le strade, è la felicità, l'età dell'oro, e allora il Papa corre scalzo a chiedere la grazia per i condannati a morte in un paese della terra, e non la ottiene, e allora tutti gridano, ecco questa è la vera immagine del giusto, e si dà un ballo collettivo a Villa Borghese, che per l'occasione è stata trasportata sulle rive del lago di Como, non so perché, e lì c'è una gran festa, e fra i cespugli Lisa, ognuno di noi ha la sua Lisa, la tua Lisa bacia qualcuno, non importa, è la musica, è la felicità. Che siamo dentro fino al collo. Dove? Nella merda, maestà. Babbo? Mozart. Quel ragazzo lì da piccolo faceva cose insensate. Gli dicevano, piccolo, 7 anni, vai al piano. E lui lì con quelle manine, di. Il genio. Che mostruosità il genio. Da una parte ti conforta perché dici, va bene, tu sempre un uomo. Già, ma dall'altra ti schiaccia, ti annichilisce. Tu lì con i tuoi pensierini, nel tuo cantuccio. Ma come sono ridicolo. Sono un uomo ridicolo che non sogna, pieno di velleità. Sono un cortigiano. Ma se almeno non facessi nulla. Nulla. L'ozio totale. Io credo che potrei rispettarmi. Certo, tutti potrebbero dire passando, vedi, quello è un ozioso. È un titolo questo, è tutta una carriera. Potrei diventare membro di qualche club di oziosi, per esempio, di disquisire con loro, che so, di pittura, no, di un pittore, anzi, specializzarmi, o di vini. Quel certo vino, quel vino, quel vitigno. Tutti direbbero, ma che uomo incantevole. È un uomo così aperto verso tutto ciò che è bello e sublime. Oggi mi ripugna, questo bello e sublime. Oggi che ho passato i 40. Ma allora sarebbe stato diverso. Ah, sì, trasformare tutto in bello, lacrimando, sì, perché avrei pianto spesso, mi sarei commosso su questo, su quello, poi sarei ingrassato, la pancia, doppio mento. Pac, sarei morto, trionfalmente. E avrebbero detto, questo sì, che merita un segno più, questa sì, che è stata una vita positiva. Già. Sogni dorati, sono soltanto un uomo malato. Invece, ho sbagliato i calcoli, sono un uomo civile. Sono malato perché sono civile, forse. Mi viene in mente una mia zia, che quando voleva dire tutto il bene possibile di una persona, diceva, è così civile, come se dicesse, è così luetica. Credo di essere malato di fegato. Non è casuale, eh? Eh no, il fegato è la sede dell'anima, certo. Commendatore, il provino. No, domani il provino, domani. Basta anche con le chiacchiere, siamo arrivati al finale. L'ultimo atto di Amleto, di questa parabola, di questo Amleto assunto come simbolo dell'uomo occidentale, che prima si sacrifica, un olocausto della propria vita, cristologicamente, illuso che il suo atto possa salvare il mondo, poi riflette in una sorta di sottosuolo dostoevskiano sulla propria impotenza, cinicamente, e poi adesso siamo alla conclusione, la propria autodistruzione si compie, Amleto diventa il proprio carnefice, diventa in un certo senso Pilato sempre. Voi credete che se Gesù Cristo ritornasse si troverebbe un Giuda disposto ad impiccarsi per lui? Tutt'al più. Qualche Ponzio Pilato, che era uomo d'ordine e romano, insensibile, indifferente alle opinioni, come alle epoche. Non è permesso introdurre una donna a testimoniare. Un momento, anche noi abbiamo una legge per cui è permesso introdurre una donna a testimoniare. Come ti chiami, donna? Slate mi chiamo, Slate. È Slate la malfamata, procuratore, Slate l'etera, è una puttana di strada! Ascoltatemi, per pietà, ascoltatemi per voi e per lui. Ah, potessi dire con le parole il mio cuore colmo di letizia. Io vi grido con il cuore in gola il miracolo che ha operato in me. Ero cieca! E lui mi ha dato la vista. Fermati, ti tolgo la parola! Volete ammazzarlo, non lo fare, non lo permettere, cavaliere. Tu che hai tanti soldati, se tu non vuoi, nessuno gli farà del male a Yeshua. Hai detto che ti chiami Slate? Sì. Sei di Cafarnao? Sì. E conosci bene quest'uomo? Lo conosco da quando era bambino, finché restò a Nazareth, in Galilea. A Nazareth, hai detto, e quando se ne andò via? Fuggì via, che aveva poco più di 10 anni, da allora l'ho cercato, sempre. Fuggì dove? Ma ne dicevano tante a Nazareth, che fuggì con i camellieri, perché qualcuno lo vide all'oasi di Engadi sul Mar Morto un anno dopo, e venne a dirla a sua madre. Dicevano che quando era nella culla, aveva 5 mesi. Un giorno parlò e disse a sua madre, consolati. Dov'è la croce? A 5 mesi. Altri dicevano che era indemoniato. Ma quando l'hai rivisto? 2 anni fa al lago di Genazaret. Come hai fatto a riconoscerlo dopo tanto tempo? Ah, non lo so. Non lo so, non lo so. Nessuno può dirlo, non lo so. Quando sono corsa con tutta la gente vicina a Cafarnao per vederlo, per sentirlo parlare, non sapevo che era lui. Non sono andata per fede. Sono andata per curiosità. E perché ero infelice. La riva del lago era piena di gente. Stavamo tutti seduti per terra, a gruppi. Oh, era bellissimo! Tutti sorridevano, cantavano, battevano le mani. Lui stava su una barca e parlava. E faceva sempre un gesto con la mano verso di noi, con le dita aperte. Non parlava a tutti insieme. Parlava a ciascuno di noi. Entrava nell'orecchio di ciascuno di noi. Io non capivo tutto quello che diceva, perché parlava in poesia. Ma vedevo i suoi occhi che mi fissavano. E a un tratto l'ho riconosciuto. Era lui, era Emanuel, da non crederci. Ah, mi sentivo svuotare, riempire d'amore. Avevo